9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, e oggi questo venerdì 12 novembre io inizio leggendovi questa risposta ad un'intervista all'Espresso, un colloquio con Giorgio Abraham. Il titolo lo avete sentito nel lancio, per chi non l'ha sentito è molto semplice: in pochi giorni stiamo passando a una velocità vertiginosa in materia. Silvio Berlusconi, il presidente del Consiglio, ha vinto le elezioni del 2008 ed è da 16 anni il protagonista della vita italiana. Ogni volta che ne ha persa una l'ha rivinta la volta successiva, dando sempre ragione a chi lo chiamava Ercolino sempre in piedi. Improvvisamente, da che la stampa italiana, ma le altre forze politiche, quelle alleate, quelle del centro dell'opposizione, quelle dell'opposizione di media sinistra, quella di oltre sinistra, tutti lo consideravano, a iniziare dal tono, come se fosse una specie di faraone, un centro immobile della vita italiana, un punto di riferimento rispetto al quale guardare con rispetto, con paura, anche quando lo si avversava esplicitamente e duramente. Nel giro di pochi giorni ha preso l'aereo, è andato a Seul ed è come se, per incantamento che vi è meno, improvvisamente i giornali, gli stessi giornalisti vicini al centrodestra, molti esponenti del centrodestra, iniziano a trattare Berlusconi improvvisamente con una velocità fulmicotonica, da che era un faraone, un centro, un potere immobile della vita italiana, come se fosse diventato già una mummia, alla quale non si riesce a dire come, quando tornerà, che in definitiva da faraone è mummia, e l'unico problema è come immaginare la cerimonia funebre. Allora, è veramente così o è l'effetto nuovo, paradossale, di un nuovo passaggio di una vita italiana che è inconsapevole di chi conta davvero, come si fa, con quali procedure ordinate si passa da un governo all'altro, come si fa a non rischiare oltretutto di essere schiaffati di nuovo dai mercati in cima alla lista dei paesi di cui si sospetta, visto che i titoli irlandesi e portoghesi sono di nuovo, anzi a massimi storici, non di nuovo, tali da far impallidire quelli dell'eurocrisi da febbraio a maggio. Allora vi leggo la frase finale di un'intervista a Giorgio Abraham, di Enrico Rosio, sull'Espresso di questa settimana. Scelgo apposta uno dei settimanali che, insieme ai quotidiani del gruppo Repubblica Finegi, da sempre, no, in trincea contro Berlusconi, contro il suo centrodestra, perché nella risposta finale a questa intervista mi sembra che ci sia, per certi versi, un po' l'atmosfera che si respira nelle cronache politiche di questi giorni. C'è una domanda al termine di questo, di questa intervista. Giorgio Abraham, per chi non lo sapesse, è uno psichiatra e sessuologo, e quindi, come potete immaginare, l'interpretazione delle difficoltà di Berlusconi è condotta tutta sulla chiave personale, per così dire, dei suoi disordini, parole testuali, del comportamento, come quello che ha creato la slavina finale nel centrodestra e negli italiani, neanche negli elettori che votavano centrodestra. Allora, il rischio maggiore, gli si chiede in questa domanda finale dell'intervista, risposta: quello di autodistruggersi. Penso a Ottaviano Augusto, che restò al potere 44 anni e prima di morire fu tormentato da Tiberio e dalla questione ereditaria. A chi lasciare l'impero? Silvio ha un problema plurimo: il futuro politico, la successione patrimoniale, l'eredità morale. Ora siamo a questo, perché se siamo a questo, qualcuno, o forse tanti, anche nel centrodestra, hanno sbagliato parecchi conti, perché c'è poco da fare. Se Vittorio Feltri, trattino, solidarietà mia personale, perché io sono contrario a un ordine che tacita i giornalisti. Io ho criticato il giornalismo muscolare del trattamento boffo, ho criticato il giornalismo dei mazzieri che ha avvelenato la vita politica italiana in questi 6 mesi e secondo me ha una responsabilità nei disastri personali dei rapporti tra i leader del centrodestra che poi diventano impolitici e non riescono a trovare più risposta. Però, fine del trattino, questa è una critica che non si risolve con gli ordini che mettono i bavagli ai giornalisti. Mi fa assolutamente schifo la cosa dell'ordine di ieri. Quindi la mia solidarietà personale a Vittorio Feltri, qualunque cosa pensiate di lui, io l'ho criticato in questi mesi, ci ho lavorato insieme. Però l'ordine che esiste per mettere il bavaglio è una cosa ridicola. Ma detto questo, qualcuno deve aver sbagliato qualcosa. Se davvero, da che il Presidente del Consiglio, che sembrava dotato di una maggioranza comunque autonoma fino a qualche settimana fa, che a luglio è stato lui a diramare quel documento grazie al quale Fini ha potuto fare l'espulso ed è diventato numericamente e quantitativamente decisivo ai fini della persistenza della maggioranza, e qualcuno deve aver sbagliato qualche cosa se improvvisamente il faraone diventa una mummia. Allora, termine della mia introduzione, perché È un po' paradossale, ma guardate che se trovate i giornali con le cronache politiche di oggi, e cioè degli incontri tra Bossi, Fini, non voglio ripetere perché nei giornali radio e telegiornali da ieri sera, le serate di approfondimento delle diverse trasmissioni televisive di ieri, avete già sentito. Siamo a un punto nel quale nessuno sembra avere il bandolo della matassa e, tanto per fare la sintesi estrema, sentiamo dalle parole dell'onorevole Bocchino qual è la sintesi che aspetta la ex faraone, forse mummia, senza che lo sappia, al suo ritorno da Seul al G20. Berlusconi rientra sabato in Italia, facciamogli fare domenica ad Arcore, finita la domenica di Arcore, lunedì mattina troverà sulla scrivania le dimissioni dei nostri componenti del gruppo. Lunedì Berlusconi trova le dimissioni. In tutti i paesi del mondo, uno che trova le dimissioni di una componente determinante per la maggioranza in Parlamento, lunedì pomeriggio va dal Presidente della Repubblica e dice: qui pare che io non abbia più la maggioranza, okay, Rimandami alle Camere, oppure fammi verificare, dammi un incarico per esplorare, per vedere se posso fare un Berlusconi bis. Berlusconi ha detto: Palazzo Chigi è mio, l'ho costruito io, lo devo lasciare a Pier Silvio e Marina, e quindi non me ne frega niente che si dimettono. Il che significa che dobbiamo sfiduciarlo. Dato che non lo sfiduceremo da qui alla fine dell'approvazione della manovra, perché siamo sempre responsabili, abbiamo rispetto per le istituzioni, si approva la manovra e se lui insiste, perché Palazzo Chigi l'ha costruito lui e lo deve lasciare a Pier Silvio e Marina, significa che arriveremo ad una sfiducia parlamentare. Come sentite, l'onorevole Bocchino esplicitamente dice deve andare a Pier Silvio e Marina, cioè lo accusa di essere una specie di satrapo orientale. Un conto è, ripeto, che nel giornalismo schierato contro, nella satira, eccetera, eccetera, si arriva a quello. Ma qui oramai lo si dice politicamente da parte di una componente che fino a poco tempo fa, nell'evolversi negativo dei rapporti tra Berlusconi e Fini, beh, era comunque sentiressa parte integrante della maggioranza. Eppure, come sentite, allora i toni... Dicono della politica, dicono che non c'è una soluzione a portata di mano, pare di sì. Allora, chiediamo ai due nostri ospiti in questa trasmissione come e perché chi ha commesso più errori, per così dire, e se davvero il faraone è diventato una mummia. Cominciamo con il capogruppo del PDL al Senato, Maurizio Gasparri. Io lo ringrazio, buongiorno Gasparri. Buongiorno Giannino, buongiorno. Ha sentito che i miei toni sono un po' espliciti, ma non è colpito dal fatto che in pochi giorni qua sembra che siamo alla celebrazione di un funerale senza il morto? Guardi, la situazione ha avuto una escalation progressiva. Ho ascoltato la sua introduzione, intanto anche complimenti per la lucidità con cui ha descritto la situazione economica ieri sera a Porta, dove mi pare che abbia, insomma, nella sostanza riconosciuto i meriti di un governo che ha tenuto sotto controllo sul versante della finanza pubblica un contesto tutt'altro che facile, perché poi vedo che tutti dicono: ah, non bisogna fare tagli, non bisogna fare qui, anche il Presidente della Repubblica partecipa a questo esercizio, ma poi esternare è facile, governare i conti è difficile. E tenere sera, ferma la spesa è molto difficile. Lei ieri sera ha fatto un'analisi molto chiara, riconoscendo nella sostanza, senza viaggeria ma con l'efficacia degli argomenti, i meriti di Tremonti e del governo. Detto questo, purtroppo questa situazione è maturata a lungo nel tempo. Veda, lei adesso ha fatto un riferimento ad alcune campagne stampa che hanno certamente esacerbato gli animi. Io la penso come lei, alcuni toni sono stati sbagliati, tuttavia un ordine giornalisti che dice tu non scrivi mi pare un po' una cosa singolare e strana. Se uno diffama qualcuno, se uno compie un reato, ci sono le leggi che vengono applicate anche ai giornalisti, che devono rispondere di eventuali reati o anche in sede civile con risarcimenti. Però ecco, le volevo dire, c'era una situazione che maturava da tempo. Io ho l'impressione che Fini, quando ha fatto l'accordo con Berlusconi, senza riunire nemmeno il partito dell'epoca, parlo del 2008, Fini era convinto che il governo Prodi non sarebbe caduto. Glielo dico perché a questo punto è bene fare anche un po' la cronaca dei fatti. Ogni volta che parlavamo lui diceva: ma no, ma tanto non cadrà, e Berlusconi invece su questo versante era più fiducioso. Poi il governo cadde di Prodi, poi si dirà è stato l'episodio Mastella, è stato un altro fatto, però quando uno non ha preso più voti popolari, perché al Senato Prodi non aveva preso più voti del centrodestra, ma avanti un giorno che arriva la Vitale di Montalcini, un giorno perché arriva Turigliatto, però poi alla fine se non hai preso più voti in nessuna democrazia reggi, e Prodi crollò. Fini fu colto, come dire, all'improvviso da quell'evento che non prevedeva e che escludeva, e si recò rapidamente, senza consultare nessuno di noi, a stringere un patto con Berlusconi per fare la lista unitaria. Io, che sono sempre stato favorevole a un grande partito unitario del centrodestra, salutai con favore quella decisione, benché non consultato, ma non solo io, ma nessuno di noi fu consultato. Quindi se senza che ti consultano prendono una decisione che condividi, alla fine non hai nulla da osservare. Fini era perplesso nel tempo su questa scelta, la fece in uno stato di necessità, perché arrivando le elezioni, quale poteva essere il timore? Liste separate, Forza Italia da un lato, AN, Lega, alleati, con uno schema classico. Se AN fosse arrivata in quel momento con un numero di voti non eccezionale, cosa che era in tutte le previsioni, il potere contrattuale dopo la vittoria della destra e del suo leader sarebbe stato più debole. Invece un accordo preventivo, un'intesa anche su quelli che sarebbero stati i ruoli dopo le elezioni, metteva più al sicuro le posizioni della destra. Così è andata. Ma Vini non è che fosse molto convinto. Successivamente, gliela faccio breve, quando siamo andati al congresso di Costituzione del Popolo della Libertà, che avvenne un anno dopo le elezioni, già allora Fini fece un discorso assolutamente accettabile, ma critico. Disse: io voglio essere minoranza in questo partito su alcune questioni, citò le questioni etiche ed altre, su cui già c'erano stati scontri molto forti tra alcuni di noi, soprattutto tra quelli che, essendo di destra, avevano mantenuto posizioni di destra nel PDL, sull'immigrazione, sul diritto alla vita, sulla famiglia, e lui che ha abbracciato, per suoi convincimenti che nessuno gli contesta ma che nessuno ha l'obbligo di condividere, altre posizioni. E già al congresso fece dei distinguo. Poi ne fece molti altri, fece quello che è stato definito un controcanto continuo, tant'è che lui aveva voluto fare il Presidente della Camera per non avere un vincolo di governo quando si discusse cosa si farà in caso di vittoria. Si ritagliò un ruolo di maggiore autonomia e si è visto poi dopo perché. Arrivati alle elezioni regionali, io l'ho raccontato a Bruno Vespa, che l'ha scritto nel suo penultimo libro, Fini il lunedì mattina, mentre era in corso ancora lo spoglio delle schede e non si sapeva come sarebbe finita, ci chiamò a una riunione di ex DN perché voleva annunciare la sua volontà di rompere il patto, pensando che la Polverini nel Lazio e Coda in Piemonte avrebbero perso. Nel pomeriggio il risultato invece delineò una sorprendente vittoria di Coda e una eccezionale vittoria della Polverini, che non aveva la lista, tutta la vicenda la ricorderete. E Fini nel pomeriggio del lunedì, cambiato lo scenario che fu di vittoria del centrodestra, di vittoria di Berlusconi, annullò quel pranzo che ci doveva essere il mercoledì, in cui ci avrebbe detto che lui voleva rompere questa compagine, non l'annullò perché il contesto a favore a Berlusconi non lo consentiva. Allora voglio dire, qui mi fermo, c'è sempre stato un desiderio di non condividere questa esperienza comune, o addirittura in certi momenti di romperla, rinviando la rottura quando le condizioni politiche di maggiore forza di Berlusconi l'avrebbero resa impossibile o incomprensibile, riproponendola in fasi come questa, dove la confusione politica, le vicende varie, rendono probabilmente meno forte la posizione di Berlusconi. Ecco, questo è lo scenario. Dopodiché, siccome c'è il governo del paese, dei voti presi, un programma, io credo che i voti presi, gli impegni col paese, il programma sottoscritto contino più di questa situazione. Non faccio lo psicologo, però le racconto dei fatti, perché questi sono poi fatti, perché sennò poi alla fine dice: ma quelli hanno sbagliato, quelli hanno forzato i toni. Per carità, quando ci sono vicende di questo tipo tutti fanno errori, li avrà fatti non solo Fini, li avrà fatti Berlusconi, li avrà fatti la stampa, li avranno fatti tutti coloro che sono protagonisti di questa vicenda, ma il racconto è questo. Io mi auguro che prevalga in questo Parlamento, o attraverso elezioni se fossero inevitabili, il programma, la volontà dei cittadini, gli impegni che si prendono con le persone, e non è che si può ridurre tutto a rapporti tra le persone, che pure contano e incidono molto. Onorevole Gaspari, io le faccio una domanda, perché mi viene veramente, guardando giornale indipendente, La Stampa oggi, La Stampa diretta da Calabresi, pagina verso la crisi, il premier e i suoi, pagina 7, titolo: Silvio, gli ultimi giorni dell'impero, Catenaccio, anche i fedelissimi prendono le distanze, una storia già vista alla caduta di Mussolini e di Craxi. Perché mi colpisce questa maniera di raccontare? Perché, ripeto, l'atmosfera nei confronti, qui stiamo parlando, La Stampa è un quotidiano insomma equilibrato, non è una roba che sta o di qua o di là nella direzione di Calabresi. E allora, aver in poco tempo dato l'impressione di essere la fine di un impero, la caduta di Mussolini e di Craxi, due personaggi di riferimento degli statisti travolti per i propri errori, per la propria cecità, oltre che per aver fatto cose buone e tante cose cattive nel primo caso, qualche cosa cattiva nel caso di Craxi, la moralità nel secondo caso, la guerra e la scelta del nazismo nel primo. Però, ripeto, se l'accostamento è questo oramai nel vissuto, vuol dire, dicono alcuni, dicono tanti elettori, anche del centrodestra, tanti sms che arrivano qua, possibile che intorno a Berlusconi non ci sia nella classe dirigente, in gente che ha esperienza politica di anni, la capacità di dirgli anche alcune verità sgradite invece di trovarsi tutti insieme da un giorno all'altro consegnati sotto la polvere della storia come se si fosse i gerarchi del fascismo o quelli dei nani e delle ballerine di Craxi? E questa domanda io gliela faccio esplicitamente. Siamo sicuri che voi avete un'agibilità politica di fronte a Berlusconi tali da considerare che il centrodestra ha un futuro oltre Berlusconi, o il giorno in cui Berlusconi non c'ha più la maggioranza alla Camera e al Senato è una storia finita? Che come, perché sentendo Fini e Bocchino sembra quasi che full stop, a capo tutti i vostri voti diventano i loro, a costo di andare al centro, a costo di allearsi con la sinistra. È sbagliata questa impressione? Guardi, capisco che il clima di questi giorni può portare a queste conclusioni apodittiche. Io francamente non credo che sia così, a parte il contesto, anche il fatto, i fedelissimi che scappano, ci sarà qualche opportunista, ci sarà qualche persona, come in tutte le vicende della storia, ma non credo che ci sia la dissoluzione di un'area di centrodestra, che è un dato politico permanente, la vera sfida del PDL e anche di Berlusconi, quindi vedremo poi come finirà questa sfida, non si è ancora conclusa, e rendere permanente un dato contingente. La personalità, il protagonismo, il leader che ha determinato tutto questo fatto, riesce a creare un contesto stabilizzato, e questa è la vera sfida, e non è ancora conclusa questa vicenda. Io credo che il PDL resti e sia il primo partito italiano, che chi abbandona posizioni poi tipiche della destra non è detto che raccolga determinati voti, perché poi si può creare caos nel palazzo, ma poi bisogna avere il consenso nel paese, e in questo momento stiamo parlando nel palazzo, dove si può spostare un parlamentare, un gruppetto, una situazione, ma poi nel paese il discorso è diverso. Io ritengo che il PDL sia una grande sfida politica, sia un grande progetto, e avrà certamente il suo radicamento. C'è un'area moderata vastissima, mica che la gente è diventata tutta di sinistra o insegue chissà quali posizioni per laiciste o che sull'economia dicono non tagliamo, spendiamo. Certo, si fa presto a dirlo. Le concludo dicendo che invece ho letto un altro articolo per Primo stamattina, un articolo per cui il PD prevede che se si votasse, e se alla Camera, no, dove questo dato almeno al momento è dato per probabile, il centrodestra avesse la maggioranza, il premio di maggioranza con questa legge, il PD passerebbe da 217 a 127 deputati. Quindi ho letto del panico che c'è nelle file del Partito Democratico, quindi come vede basta leggere articoli vari per raccogliere umori vari. Però io non credo che ci sia la dissoluzione di un'area moderata, o chi l'ha destrutturata ne raccoglierebbe l'eredità. Quindi il sottinteso è, se andiamo al voto voi ve la battete e vediamo insomma chi dice che tutti i conti sono già chiusi. E siccome la palla va nel campo del PD, noi abbiamo con noi Enrico Letta, il vice segretario del PD, che è stato ad ascoltarci fin troppo paziente per tutti questi minuti, e io gli giro la palla subito. Primo, è vero che il PD è in questo stato d'animo di fronte a quello che succede? E soprattutto, secondo, che cosa pensa di questo rapido, impressionante, mi occhi, volgere di atmosfera per cui siamo alla fine di un impero, Mussolini e Craxi diventano i punti di riferimento? Sembra quasi che insomma Berlusconi al ritorno del G20 debba fare solo scalo a Roma per formalizzare la crisi e poi tornare con l'aereo magari ad Antigua, ecco. Ma più o meno l'atmosfera sembra diventata questa. Che impressione fa a Enrico Letta, che è una persona equilibrata, moderata, ma è vice segretario del PD? Innanzitutto, nel PD come state messi con l'umore? PD stiamo messi bene con l'umore, perché noi abbiamo sempre detto che questo governo era un governo che aveva una base politica, una maggioranza nella quale da una parte la formidabile leadership di Berlusconi gli aveva garantito un rapporto col paese oggettivo, ma successivamente poi il rapporto con i problemi reali è un rapporto che ha rovesciato la situazione. Vede, a me colpisce una cosa: questo è il terzo tentativo di Berlusconi. Credo che nessuno abbia avuto tre chance come le ha avute lui in 16 anni, e in ognuno di questi tentativi lui ha dimostrato formidabili capacità di trascinatore nel rapporto con l'elettorato, di comunicatore, ma in tutti e tre i casi si è autoaffondato, come si sta autoaffondando adesso, per l'incapacità di una leadership che sappia governare. Governare vuol dire tener conto dei problemi, della complessità dei problemi, sporcarsi le mani con la complessità dei problemi e soprattutto mettere insieme gli alleati e far convivere gli alleati. Nella prima esperienza ruppe con Bossi dopo 7 mesi di governo e andò tutto a carte 48. Nella seconda esperienza ruppe col leader dell'UDC di allora, che era suo vice premier Follini, e ruppe anche col suo ministro dell'economia, che licenziò in malo modo Tremonti nel 2004. Successivamente ha rotto con l'UDC, che se n'è andata con Casini, e oggi alla terza esperienza rompe addirittura con Fini, che è sempre stato il suo alleato più fedele in questi 17 anni, mandando a carte 48 un'esperienza di governo. Questo è il dato di fondo. Accanto a questo dato, il senso di questi giorni, di questo accostamento anche che lei ha fatto a Mussolini e a Craxi, è dovuto soprattutto, secondo me, al tipo di leadership, una leadership che non ha mai accettato di avere rapporti alla pari con i propri alleati e con coloro che gli stanno attorno. Diciamo la verità, perché è una cosa che tutti sappiamo, con Berlusconi o si è dipendenti, e allora il rapporto del dipendente è un rapporto in cui è faticoso dire la verità al capo. Dire la verità al capo, io non so quanti gliel'hanno detta in questi ultimi tempi, se si vede poi qual è stato il suo comportamento. Quello che trovo abbastanza incredibile è che dopo quello che era successo l'anno scorso, che ha minato duramente, parlo degli scandali personali, la credibilità del Premier, e poi è continuato come se nulla fosse successo, e questo oggettivamente ha dato anche nei suoi, oltre che nel paese, l'impressione di un leader che non c'è più, che cioè che non ha più la capacità di mettere in ordine le priorità e sapere che ha sulle spalle la responsabilità di un paese. Oggi. Anche perché, diciamo la verità, un partito è fatto, un partito, poi ci sarà un modello più carismatico e un modello invece più tradizionale, però un partito è fatto anche di leader di seconda e terza fila, che quando il leader che governa ha dei problemi di stile che hanno un impatto nell'immagine internazionale, nell'opinione pubblica e a cominciare dal proprio elettorato, gli inizia a dire pubblicamente: guarda, così tu vai a casa. Perché i partiti sono questo, altrimenti a che servono? E no? Mette in campo anche delle soluzioni. Se un leader ha perso la testa e non c'è più, mette in campo una soluzione, mette in campo, che so io, il ministro dell'economia o altri, e trova il modo di seguire la responsabilità che ha nei confronti del paese. Qui quello che è saltato con la vicenda Berlusconi, e dobbiamo impararlo tutti, è questo sistema plebiscitario che purtroppo si è costruito anche grazie a una legge elettorale che sostanzialmente elegge il sindaco d'Italia, e come nei comuni, quando dai tutto in mano a un'unica persona, poi sei, diciamo, legato alle dinamiche personali di quella persona, perché appunto oggi siamo in questa condizione. E però voglio fare una riflessione sull'oggi, perché questo è troppo importante. Certo. Oggi Berlusconi è a Seul, le cronache di tutti i giornali italiani sono tutte sul rincontro tra Bossi, Fini, ieri, eccetera. Le cronache di tutti i giornali internazionali sono sul quasi fallimento del vertice di Seul. Ed è una cosa che a noi deve preoccupare tantissimo, perché mentre il vertice di Seul, che doveva far terminare la guerra delle monete, pensiamo alle nostre imprese, quanta fatica fa ripartire con le esportazioni, con l'euro alto, come invece le politiche commerciali e finanziarie americane ci stanno obbligando a tenere. Mentre questo succede, l'Irlanda sta andando a carte 48. L'Irlanda non è la Grecia, l'Irlanda è molto peggio della Grecia, perché l'Irlanda vuol dire la succursale, Dublino è sostanzialmente la succursale finanziaria della più importante piazza finanziaria europea, che è quella di Londra. Quindi se va a carte 48 Dublino, e l'Irlanda non è l'1% del PIL europeo che salta, è un effetto a catena molto di più, con i conti pubblici italiani sempre sotto pressione, tenuti grazie al fatto che sul deficit si è riusciti a non esondare, questo è sicuramente stato ed è un titolo di merito, ma noi ci troviamo in questa condizione, quindi faticosissima. Le banche italiane e le imprese italiane sanno che da 2 settimane a questa parte, cioè da quando è cominciata la fibrillazione nella maggioranza, o meglio la fase finale della fibrillazione della maggioranza, la capacità di prendere denaro da parte delle banche è diventata molto più difficile, e questa difficoltà costa alle principali banche italiane centinaia di milioni di euro. Queste centinaia di milioni di euro non credo che le banche italiane non li scaricano poi sulle imprese sui consumatori. Questo vuol dire che in queste ore, per questi motivi, e questi sono fatti oggettivi, non sto facendo discorsi di parte, la già difficile ripresa e la competitività del paese ne sta subendo. Viene ulteriormente compromesso. A questo aggiungo una considerazione che devo fare, perché se no ci raccontiamo cose su un'Italia che è diversa da quella che è. Noi veniamo da un decennio perduto, decennio nel quale hanno governato centrodestra e centrosinistra, quindi responsabilità secondo me maggiori del centrodestra, ma comunque diffuse, condivise, e responsabilità anche del mondo imprenditoriale, del sistema della rappresentanza, delle caste del nostro paese, delle caste, dei sindacati, insomma condivise un decennio perduto. E anche qui dico le cifre: secondo il Fondo Monetario Internazionale, negli ultimi 10 anni di 180 paesi del mondo, per crescita accumulata in 10 anni, cioè l'ultimo paese è l'isola di Haiti, che ha avuto il terremoto, che ha una crescita negativa. Il penultimo, cioè il 179esimo, è l'Italia, con una crescita del 2,4% in 10 anni. Vuol dire che siamo fermi al 2000, sostanzialmente. E questo, io ora la devo interrompere perché abbiamo la pubblicità, e questo appello finale a ricordarci la mancata crescita che abbiamo da troppi anni, nonché la terribile tensione dei mercati e la stessa solfa che ho suonato anch'io ieri sera in televisione. Penso che la politica a tutti i livelli italiani, nell'attuale maggioranza, nella pezzi di maggioranza che se ne vogliono andare, nell'opposizione, se dimentica che ogni secondo che Dio manda in terra il debito pubblico italiano aumenta di 2.300 euro, più di 140.000 euro al minuto, penso che tra poco l'Italia si rimetta nel ballo della sfiducia internazionale, e con questa crescita che abbiamo così bassa, come dice l'onorevole Letta, non ce lo possiamo permettere. Non vedo segni di questa responsabilità. Io mi auguro che politici responsabili evitino al paese, a tutti noi come contribuenti, ai disoccupati italiani, di vedere ulteriormente aggravate le loro condizioni. Pubblicità. Eccoci tornati in studio, sentiamo subito alcuni ascoltatori se pensano che il faraone sia un faraone ancora, se è diventato una mummia senza che ce ne rendiamo conto, seppure tornato riparte subito per Antigua, oppure invece se davvero c'è un centrodestra che vive e che ha un futuro a prescindere da Berlusconi, in quanto non carismatico ma radicato profondamente, come dice i sondaggi, come dicono i voti. Però attenzione, quando i leader carismatici crollano improvvisamente sotto la polvere, ci sono cose inusitate nella storia italiana, quindi io non so a questa domanda quale sia il futuro. Sentiamo come la pensate voi, cominciamo con Alberto che chiama da Vicenza. Alberto, prego. Buongiorno Sergio Giannino, premettendo che non sono berlusconiano in quanto voto Lega, all'inizio della trasmissione mi sembrava di aver sentito forse della vedova che parlava. No, oggi no, ma all'inizio della trasmissione ha sentito Bocchino che parlava, non ho sentito bene. Parlando appunto del faraone che considera il palazzo come sua proprietà da lasciare addirittura ai figli. Ecco, mi chiedo se il suo collega di partito, cioè Fini, che aveva promesso di dimettersi una volta che veniva dalla famosa casa riconosciuta dei Tulliani, mi pare che a sua volta col faccia la stessa manovra consideri casa sua. Tutto qua. Allora, questa è una vicenda singolare, anche compresa la procura di Roma che l'ha indagato per 2 ore, aperto e chiuso il fascicolo. Comunque, d'accordo, io penso che comunque insomma la sostanza sia quella, ricordateci l'onorevole Gaspari, la verità è che l'onorevole Fini da anni e anni e anni dice l'onorevole Berlusconi, appena posso ti do la botta. Questa è la storia del centrodestra nei rapporti tra i due. Davide da Torino come la pensa invece? Prego Davide. Signor Giorgio, buongiorno. Grazie. Buongiorno, mi sa che deve abbassare la radio perché si sente l'eco. È spenta la radio. Allora dica. Sì. Adesso provi, vada. Buongiorno. Io tanto non sono un elettore del centrodestra, però volevo dire, ho visto l'esordio di Fini l'altro giorno, cioè l'emendamento sul trattato con la Libia è andato sotto 3 volte, quindi sembra che voglia richiamare gli immigrati barconi. E poi comunque non vedo bene anche questa alleanza insieme all'UDC e appunto Rutelli, non mi sembra una grande cosa di nuovo per il paese, anche perché comunque l'UDC ha un sacco di colpe, ha un sacco di mafiosi all'interno del partito, quindi io il nuovo e la grande legalità lì non ce la vedo. Se questo è l'esordio di Fini mi lascia un po' perplesso. Grazie Davide. In effetti al centro molti iperproporzionalisti con in mani libere senza indicazione da parte dei direttori del Premier e molto partito dalla spesa pubblica. Però sapete com'è, in ogni famiglia politica nessuno è perfetto. Sentiamo Anna Maria da Roma. Prego Anna Maria, lei come la pensa? Buongiorno, mi sente? Sì, vada pure. Sì. No, niente, io volevo, diciamo, sono un'elettrice del centrosinistra tradizionalmente, e niente, volevo testimoniare per esempio il mio interesse verso, diciamo, la destra finiana. secondo me non è vero, cioè nel senso non per tutti i moderati del centrodestra alla fine, diciamo, Fini rappresenta un limite invalicabile. Personalmente quando sento parlare Bocchino, sento parlare Fini, non ci vedo nulla di strano che abbia appunto dei temi comunque interessanti per noi elettori del centrodestra. E francamente mi stupisco come dall'altra parte, cioè quindi parlo del centro-sinistra, non ci sia un'altrettanta chiarezza all'interno, diciamo, del partito, come in effetti poi è successo nel centro-destra. Io sentivo prima Gianni Letta, il signor Letta, che ammiro molto, però diciamo ho letto anche il suo libro Costruire una cattedrale, però vedo che lì ancora, diciamo, sostanzialmente ci sono molte cose non risolte, mentre invece dalla parte diciamo della destra nuova di Fini in qualche maniera si è aperto uno spiraglio, si è visto chi deve stare da una parte e chi deve stare dall'altra. Quindi diciamo Anna Maria che nel centrodestra arriviamo dopo 16 anni al re della razione tra Berlusconi e Fini, nel centrosinistra ci arrivano così frequentemente che abbiamo perso il conto dei segretari del PD che vanno a casa, vanno sì e hanno no, questa è la differenza. Però io credo che Anna Maria ci aiuti, ci dia un dato. È vero che un bel pezzo di elettori di centrodestra, i sondaggi dicono tra il 5, il 6, il 7, vedremo, però un po' di elettori di centrodestra in maniera crescente, da che quest'estate è successo il casino tra Fini e Berlusconi, iniziano a dire che Berlusconi non ne può più, il suo stile è incondivisibile, fa troppe stupidaggini, è fuori controllo, e hanno iniziato a guardare a Fini in una maniera diversa rispetto a come guardavano prima. Questa è la partita aperta nel centrodestra italiano, al di là dei numeri del Parlamento che secondo me oggi non danno una soluzione a nessuno. Sentiamo ancora Alessandro da Carrara, come la pensa lei? Sì, buongiorno dottor Giannini. Ascolti, io vorrei fare solo una brevissima considerazione. Più che considerazione vorrei capire il momento che stiamo vivendo, perché io ammiro molto, la reputo una persona molto intelligente, vorrei che lei mi aiutasse, perché io non capisco dove stiamo andando. Nel senso, stiamo attraversando un momento di crisi internazionale spaventosa. Io vivo in una provincia, Massa Carrara, che rappresenta veramente la povertà, ma la povera gente va alla Caritas a mangiare, cioè, ma il momento nazionale è drammatico. Io vedo dall'altra parte la classe politica dovrebbe risolvere, tra virgolette, chiaramente, dovrebbe perlomeno affrontare problemi che si incaponiscono in litigi che sono, dottor Giannino, personali, perché io vorrei capire perché Futuro e Libertà è diventato un partito, vorrei capire perché Futuro e Libertà è uscito, uscirà, se, io mi auguro che faccia, perché non si capisce ancora se esce. Comunque Bocchino, che ieri sera ha detto che lui è di destra perché aprono i congressi con l'inno nazionale, che vuol dire, vabbè, insomma, ecco, vorrei capire cosa. Guardi, Alessandro, io non spetta a me dirgli, io credo che una classe politica seria dovrebbe dire: noi dobbiamo fare cose alla tedesca, mettere un limite alla spesa pubblica in Costituzione e al prelievo fiscale in Costituzione. Bisognerebbe dire: noi spendiamo troppo, spendiamo male, solo tagliando molto spesa pubblica la si rialloca laddove serve davvero, cioè nella copertura a chi ha basso reddito, no all'intermediazione in alcune regioni italiane in cui gli sprechi e le inefficienze fanno la forza dell'antistato e fanno la forza di clientele che sono gli sprechi nella sanità, nell'assistenza pubblica, negli invalidi. Non c'entra nord contro sud, non c'entra nulla in tutto questo. Io penso che il fondamento di questo sia pensare che noi abbiamo 10-15 anni di produttività e di spreco pubblico da recuperare. Non capisco perché, se lo fanno paesi come la Germania, se lo fanno paesi come la Gran Bretagna, che aveva un deficit dell'11%, non possiamo farlo noi. Questa sarebbe, secondo me, la stella polare. Quello che accade invece è che noi siamo presi dalla volontà di metterci alle spalle questi 16 anni di Berlusconi. Berlusconi, secondo me, ha sbagliato tanto, non è più lucido, non capisce che non c'è più la maggioranza, c'ha intorno a sé troppi camerieri. Io su questo sono durissimo. Penso però che l'effetto di tutto questo può essere un sbriciolamento del centrodestra, un centrosinistra che a sua volta, come si vede, non muore la voglia di andare a votare perché non capisce bene quale bandolo prendere, e quello che vedo è frazionamento, addio al bipolarismo e spesa pubblica fuori controllo. Se questa è l'Italia dell'oggi e del domani, vuol dire che semplicemente dovremo passare altri anni di crisi fino a che politici seri emergano dalla pancia di questo paese. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale e poi una chiusura col direttore del Tempo Mario Secchi, che è in collegamento già da 10 minuti, e gli diamo la parola subito dopo le informazioni sulle strade. Eccoci tornati in studio con il direttore del Tempo, Mario Secchi. I nostri ascoltatori lo conoscono bene, una voce con un giornale, certo, schierato nel centrodestra, ma insomma per lunga tradizione, oltre che per sardità, affilata, tagliente, sincera e molte volte anche controcorrente nelle analisi rispetto agli stessi giornali del centrodestra. La domanda iniziale da cui siamo partiti: è ancora faraone o è già diventato mummia e il problema è solo come farglielo capire una volta che torna dal G20? Questo cambio di atmosfera non ti colpisce, Mario Secchi? Bella domanda. Intanto faraone e mummia, bella metafora, e attenzione però, le mummie si risvegliano, partiamo da questo. Partiamo da questo, giochiamo con questa cosa qua. Allora, mettiamo che il cavaliere sia mummia. E ho sentito le tue analisi, che io, come sai, in parte condivido. Anzi, devo dire che potrei sottoscriverle sostanzialmente tutte. C'è però un piccolo particolare, che anche Giuliano Ferrara stamattina, non so se l'avete già citato, nel suo pezzo Ad Ombra, un pezzo molto critico sul divorzio di Fini, anche quello condivisibile e sottoscrivibile, anche io penso che il divorzio da Fini non sia stato sufficientemente ragionato, anzi sia stato a dir poco rocambolesco. E tuttavia lo stesso Ferrara dice: attenzione però, perché il cavaliere potrebbe sospenderci per il fatto che lui è l'eterno comeback kid, cioè ringiovanisce, si autorigenera e potrebbe riservarci ancora qualche sorpresa. Ferrara è piuttosto scettico su questo. Io invece penso un'altra cosa, e cioè penso che il berlusconismo sia preesistente a Berlusconi, e che Berlusconi sia stato l'uomo che l'ha meglio interpretato in tutti questi anni. Ossia, quel popolo che vota centrodestra invariabilmente e se ne infischia alla fine, quando va alle urne, dei non pochi svarioni e degli errori dattafazzi del cavaliere, ebbene, quel popolo non è una mummia. C'è un magma vivissimo. C'è. E quel popolo fa una cosa: quando arriverà, perché a questo punto ci si arriverà, il momento di votare, si comporterà in questa maniera. Entrerà nel supermarket dell'offerta politica, si guarderà intorno, troverà lo scaffale e dirà: ah, vediamo un po' che cosa c'è qui. Allora, Silvio Berlusconi, bene, lo conosco da 16 anni, so com'è fatto. Poi Gianfranco Fini, lo conosco da 16 anni, però nell'ultimo anno e mezzo è cambiato, vediamo un attimo. Il PD, resta un oggetto misterioso. Di Pietro, so com'è fatto, anche lui da 16 anni fa certe cose. Montezemolo, ma questo è nuovo. Sapevo che voleva arrivare lì. Montezemolo, questo è nuovo, che cosa fa? Boh, non so, vuoi inserire un altro outsider, Oscar, possiamo farlo. Vabbè, della Lega comunque si sa, perché la Lega guarda, i voti li piglierà altro che... Ecco. Guarda lo scaffale settentrionale e dice: qua c'è l'Umberto Maroni, gente seria, sì, li conosco, e così via. Domanda: come si comporterà il popolo berlusconiano? Mario, ma qui il punto è che una parte non dichiarata del progetto è che dopo che a dicembre cade il legittimo impedimento, sì, entro 90 giorni a Milano gli arrivano 7 anni di carcere, certo, e l'interdizione dei pubblici uffici operante fin dal primo grado, e quindi Berlusconi non si candida più, è il popolo del centrodestra che sceglie. Ecco, e allora arriviamo al punto. Allora, nel 1994 il popolo berlusconiano preesistente a Berlusconi, secondo tutti, avrebbe dovuto scegliere il PC, l'ex PC, no? Tutti i partiti sono stati massacrati, il sistema è imploso, la sinistra italiana, per un paradosso della storia, proprio mentre il muro cadeva, era predestinata a governare. E invece cosa succede? Succede che un outsider, un tycoon, un... Mario, allora ti devo interrompere. Stai dicendo che se questo succede bisogna che ci prepariamo una nuova rivoluzione. Un imprevisto astro, un nuovo faraone scende, prende lo scettro e dice alla sinistra, e dice a Montezemolo, ai centristi, al deficisti: voi non vincete. Esatto. Popolo di centrodestra, pensaci, non ti arrendere, o altrimenti penso che il futuro per te sarà un brutto futuro. Grazie Mario Secchi, esatto, Enrico Letta, Guido Crosetto, che non ha partecipato ma comunque sia dalla Turchia ci ha provato, e quindi io lo sto salutando, e l'appuntamento è lunedì. Grazie a tutti quelli che hanno consentito questa trasmissione. Devo tagliare perché sennò il direttore dice che io sforo sulla pubblicità e non posso. A lunedì.